Italia in controluce. Sono le 13.32, buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti all'appuntamento con la cronaca su Radio 24, tutte le storie che ci parlano dell'Italia in controluce. Piove, governo ladro, ma a Milano non è solo un modo di dire. Sentite qua, ancora una volta la città è alle prese coi danni provocati dalle piogge nella zona di Niguarda. Restano chiuse 3 stazioni della metropolitana, mentre comune, provincia e regione, questo è il punto, accusano il governo di bloccare i fondi per ristrutturare il corso del Seveso, ed è proprio il Seveso dal quale nascono i problemi. Ennesimo rimpallo di responsabilità per un problema che va avanti da 25 anni e che anche nei giorni scorsi, solo per un miracolo, non ha avuto un bilancio ancora più tragico. Giovanni Capuano. La gente di Niguarda si è abituata a questo rumore. Il rumore delle pompe che svuotano strade, cantine, negozi, abitazioni, dopo ogni pioggia un po' più forte del normale, che in questo angolo di Milano diventa allagamento, disagio, rabbia e frustrazione. Questo è Milano dell'Expo, lo diciamo al nostro sindaco. La gente di Niguarda si è anche abituata ai titoli sui giornali e alle foto degli amministratori che arrivano puntuali, proprio come le piene del Seveso, progettano e poi se ne vanno. Da 25 anni garantiscono una soluzione. La gente di Niguarda ha perso il conto delle volte che il Seveso è uscito dai tombini, ha rotto il suo argine di cemento sotto la città, ha invaso le strade e provocato il caos. Quella di sabato notte è stata la 6ª esondazione dell'anno. La contemporanea rottura di un tubo dell'acquedotto ha paralizzato mezza Milano. Tunnel della metropolitana invasi dal fango, stazioni chiuse, auto e binari sprofondati in una voragine che solo per miracolo non ha fatto morti. E ancora una volta la politica si è divisa nel balletto delle responsabilità, dove tutti conoscono la soluzione, ma nessuno spiega perché prima e dopo Tangentopoli non si è riuscito a realizzarla. Il vice sindaco Riccardo Decorato. Noi siamo le vittime, cioè il problema non è delle fogne di Milano, il problema è che le fogne di Milano rigurgitano di acqua. Arrivano in maniera violenta le acque di scarico delle fogne della provincia di Varese, Como e della neocostituita provincia di Monza. Perché io devo togliere dal bilancio di Milano 68 milioni di euro che posso fare scuole, disabili, per fare un'operazione che certamente è fondamentale, ma che deve vedere anche gli enti che ci creano questo problema. Prima il progetto del raddoppio del canale Scolmatori, iniziato e non portato a termine, poi un intervento per aumentare del 20% la capacità del fiume, 23 milioni di euro il costo, 15 parte dei fondi FAS oggi congelati. Il presidente della regione Formigoni, prossimo commissario straordinario all'emergenza Seveso. Il finanziamento è avvenuto con fondi FAS. Noi li abbiamo resi immediatamente disponibili, ma la partita dei fondi FAS il governo ci ha segnalato la necessità, a causa delle situazioni economiche, di fermarli. L'ultima brutta figura potrebbe però accelerare i progetti, anche se è inutile che la gente di Niguarda si illuda, perché serviranno ancora anni. Il presidente della provincia Podestà. Quanto tempo si può ipotizzare per il completamento di quest'opera? Credo che ci vorranno almeno 2 anni, forse di più, di lavoro. L'ipotesi del progetto per portare le acque con un canale a Lambro è fattibile? È un'opera molto costosa, quella potrebbe essere un'ulteriore opera. In Viale Zara intanto la gente arriva, si ferma, guarda nella grande voragine. I tecnici lavorano giorno e notte per ripristinare i binari del tram e le stazioni della metropolitana. Poi si conteranno i danni in attesa del prossimo temporale. Italia in controluce. Palermo, Napoli, Genova, 3 città, 3 porti, 3 distretti industriali dove è presente Fincantieri e dove le ipotesi di ridimensionamento, di tagli agli stabilimenti previsti nel piano industriale del gruppo triestino spaventano gli operai, i sindacati, ma anche la cittadinanza e l'autorità locale. E allora andiamo con Andrea Ferro in Liguria a fare il punto. Nel cantiere di Sestri Ponente hanno preso forma alcune tra le navi più belle di tutti i tempi. Navi da guerra e navi impiegate a solcare l'Atlantico, quando in America si poteva arrivare solo via mare, rotta di migranti e speranze. Giulio Cesare, Caio Duilio, Roma, Rex, nomi e simboli di un'epopea, testimonianze di una tradizione fatta di ingegno, forza, prestigio. Poi la stagione delle navi da crociera, palazzoni galleggianti enormi, ipertecnologici, in una sfida mondiale a farli sempre più grandi. Ora lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, una delle ultime realtà di quello che fu uno dei poli del triangolo industriale, è minacciato da un pesante ridimensionamento nell'ambito di un piano che prevede tra l'altro la chiusura dei cantieri di Riva Trigoso e Castellammare di Stabia e la trasformazione di quello di Palermo. A Genova la protesta della città è corale, dagli enti locali all'arcivescovo Bagnasco, in testa il sindaco Marta Vincenzi. Quello che bisognerebbe aver compreso in tutti questi anni, secondo me, doveva essere alla base anche del ragionamento sul federalismo, è che ormai da tempo le economie si muovono anche in dimensione territoriale, che spesso non coincidono con un comune o con una regione, ma con distretti, con relazioni economiche, produttive, però sono individuabili e che bisogna tenere presenti quando si fanno piani o strategie. E io l'altro giorno rileggevo, perché mi è capitato, una lettera di Cavour, e siamo a 150 anni dall'Unità d'Italia, e lui, rispetto all'Ansaldo, che era la prima grande scelta industriale, alle strategie forti del futuro, lui si raccomandava persino con l'Ansaldo, però tutta una serie di forniture, diceva: mi raccomando, non fate tutto voi, e quindi già si poneva il problema modernissimo della, diciamo, della filiera o comunque della organizzazione produttiva. Cioè, ma qui, questi qua, di questi piani, io non ci vedo la traccia di questa cosa, non vedo nessuna traccia. Il paese non ha nessuna politica industriale. E cosa, i comuni cosa sono chiamati a difendere? L'occupazione tu curo, oppure a dover sopperire poi alle ricadute sociali che le chiusure o i ridimensionamenti delle fabbriche comportano? Ma non sapete, cioè non può essere solo questo. In ballo migliaia di posti di lavoro, pesanti incognite sul futuro produttivo di aree già fortemente depresse da un processo di riconversione industriale fallito. Lunedì a Roma è fissato un incontro tra i vertici di Fincantieri e i sindacati. Il 1 ottobre sciopero nazionale di 8 ore e corteo fino a Palazzo Chigi. Bruno Manganaro è il segretario genovese della FIOM CGIL. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà l'atteggiamento dell'azienda e dell'azionista, che è il governo al 100%, quindi se sono risposte positive, quindi si ritira quel piano, è chiaro che il clima sarà diverso, più tranquillo. Ecco, se invece venisse riconfermato, credo che le iniziative di mobilizzazione, di scioperi, di conflitto saranno sempre più aspre e più ampie. Credo che le mobilitazioni dei lavoratori abbiano costruito un consenso ampio degli enti locali, della stessa Chiesa, Cardinal Bagliasco, nei confronti dei lavoratori. E non credo che a tutti questi soggetti gli si può dare uno schiaffo. Italia in controluce. Alle 13.41 un'altra storia che viene dal profondo sud e odora quasi del mare di Lampedusa, l'isola simbolo della frontiera italiana col Mediterraneo, ma anche e soprattutto dell'approdo degli immigrati. Oggi è un giorno di festa per Lampedusa, proprio nel giorno nel quale si ricordano i 157 anni dalla colonizzazione, cioè dal primo nucleo di abitanti che si sono trasferiti lì dal continente. Oggi si inaugura il nuovo molo di Cala Pisana, un fatto significativo se si pensa che ci sono voluti 40 anni. Laura Bettini ne ha parlato con l'assessore di Lampedusa, Pietro Busetta. Quando qui a Lampedusa c'erano i venti del sud, Libeccio e Scirocco, lo scalo principale, questo scalo che è praticamente un porto naturale molto bello, molto grande, non era utilizzabile, perché Lampedusa è rivolta verso l'Africa, anche simbolicamente il paese, il porto, sono tutti verso sud. E quindi praticamente in queste occasioni lo scalo principale dell'isola non poteva essere utilizzato. Lei capisce bene che il porto per un'isola è il collegamento, è il movimento con la sua provincia, dalle merci alle bombole, per dare una dimensione, no? Alla frutta, tutto quello che serve per la sopravvivenza dell'isola arriva con le navi. Come mai così tanto tempo ci è voluto per arrivarci? I lavori a mare intanto sono complicati, le amministrazioni pubbliche sono estremamente lente, le risorse non sempre ci sono, come le sai bene, tutti i passaggi sono estremamente complessi. Immagini che per esempio la soprintendenza del mare ha dovuto dare un suo parere, un suo nulla osta, perché alla Pisana ci potevano essere dei reperti di cannoni, dei reperti che l'arrivo della nave poteva mettere in discussione, quindi c'è stato bisogno anche di questo tipo di nulla osta. Quindi adesso la Protezione Civile si è presa in carico questo importante intervento e finalmente... Quindi è stato tramite l'intervento della Protezione Civile che si è arrivati a concludere. Esattamente. Quindi un'opera straordinaria è diventata. È diventata un'opera straordinaria. Purtroppo questo porto però vi arriva proprio in un momento di crisi della Siremar, che è quella che garantisce il collegamento. Certamente, questo è un fatto importante. Per noi il trasporto marittimo è fondamentale e di questo siamo molto preoccupati. Abbiamo bisogno per esempio della nave Ro-Ro, che ancora non c'è, che porti le merci. Abbiamo avuto un mare di problemi per portare i giochi d'artificio per la festa della Madonna, perché evidentemente essendo una nave passeggeri abbiamo dovuto portarli con la nave invece che porta l'acqua. Diciamo che guardiamo il mezzo bicchiere pieno, no? Abbiamo grandi progetti perché vogliamo destagionalizzare il turismo, abbiamo pensato a un campo di golf, abbiamo chiesto per tutto il lavoro svolto nei confronti degli emigrati, perché questa è un'isola di accoglienza e quindi è stata per un lungo periodo, come lei sa bene, un centro di recupero. Clandestini che sono transitati negli anni, qualcuno poi è rimasto partecipando? In genere no. C'è qualcuno che è ritornato a vedere. Noi abbiamo intenzione di fare un museo dei migranti, perché sono passati migliaia di persone ed è bene che come a Ellis Island sia documentato questo passaggio, perché in futuro i figli e i nipoti di coloro che sono approdati qua per la prima volta possono andare a vedere qual è stato il percorso, il cammino che i loro genitori hanno fatto. Ed è tutto anche per oggi per Italia Incontro Luce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Potete scriverci, ve lo ricordo sempre, controluce@radio24.it. Inviateci le vostre storie. Da Alessio Maurizio in studio, Roberto Scaltritti in regia. L'augurio di una buona giornata. Noi ci sentiamo domani.